nostra indagine ha consentito di individuare un'associazione per delinquere che si era appunto specializzata nella predisposizione di tutta una serie di artifici finalizzata ad ottenere dei mutui che poi non sarebbero stati onorati, e fin qui probabilmente non c'è niente di originale. L'originalità in che cosa consiste? Consiste nel fatto che questi mutui venivano concessi in relazione a degli immobili di scarsissimo valore. Venivano individuate delle teste di legno che si presentavano come acquirenti di questi stessi immobili, a teste di legno che venivano fornite, è proprio il caso di dirlo, di ogni elemento documentale, di buste paga, CUD e quant'altro, che da presentare alle banche per fornire un'immagine del potenziale acquirente diametralmente opposta a quella reale. A quella che era, quindi praticamente venivano falsificati buste paga, venivano falsificate dichiarazioni di redditi, e il soggetto testa di legno, prestanome di questa organizzazione criminale, arrivava in banca con la compiacenza, verosimilmente, di alcuni funzionari bancari corrotti, ottenevano questi mutui e poi sparivano con i soldi in tasca. Sì, questo in alcuni casi, in altri casi in realtà la banca è una le banche sono state veramente esclusivamente vittime. Certo. L'intervento, questo sì, determinante nella totalità dei casi, di alcuni dei periti che definiremmo normalmente di fiducia della banca, ma che in questi casi non erano assolutamente di fiducia, poiché redigevano delle perizie sovrastimate all'inverosimile, attribuendo valori anche del 500% rispetto al reale, certo, a degli immobili che spesso erano dei ruderi. È chiaro, insomma, una catapecchia valeva di scarsissimo valore. Certo, insomma, una catapecchia valeva quanto l'Empire State Building.